Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Flavio Felice. Buonasera. Buonasera a lei, dottor Rettore. Flavio Felice è professore di dottrine economiche e politiche alla Pontificia Universitaria Lateranense e di filosofia dell'impresa alla Luis Guido Carli di Roma e è nostro ospite per parlare del libro Il liberalismo delle regole, genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato che ha curato insieme a Francesco Forte. Si tratta del primo volume di un'antologia che, come dice il titolo, è dedicata appunto ai testi, possiamo dire ai testi, tra virgolette, sacri dell'economia sociale di mercato, una realtà di cui si parla poco, ma si conosce forse ancora meno. Allora, Flavio Felice, che cos'è innanzitutto l'economia sociale di mercato? L'economia sociale di mercato come filone di pensiero nasce, possiamo dire, come espressione, come denominazione immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si fonda su presupposti teorici che erano stati formulati già dalla fine degli anni 30 da alcuni economisti e da alcuni giuristi. In modo particolare nel 1936 Walter Eucken, Franz Böhm e Hans Gross van Dert dell'Università di Friburgo, cosiddetta appunto la scuola di Friburgo, formularono un manifesto che dovesse riconsiderare il ruolo delle scienze sociali nella Germania di quegli anni. Sulla base di questa riflessione sono sorte poi dei testi, sono stati scritti dei documenti che hanno interessato appunto il campo del diritto ed il campo dell'economia. Era presente in questi interpreti, in questi autori, la consapevolezza che diritto ed economia fossero due campi strettamente connessi, che ogni discorso sull'economia dovesse far riferimento a un discorso sul diritto e viceversa. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto ad opera di Erhard e di Müller-Armack, che era suo sottosegretario al Ministero per l'Economia, si diede inizio a questo filone di pensiero appunto che ha tentato appunto di considerare la rilevanza della concorrenza proprio al fine di ottenere obiettivi sociali, dunque non mercato e sociale come termini contrapposti, ma il sociale ottenuto attraverso il principio di concorrenza. Ecco, non tanto quindi una terza via tra capitalismo e dirigismo e comunismo in un certo senso, ma qualcosa di diverso che avesse le sue radici nel liberalismo da una parte e nel diritto dall'altra. Sì, c'è la consapevolezza che il libero mercato lasciato a se stesso non produce necessariamente gli esiti ottimistici che prevedevano, possiamo dire, gli interpreti un po' del manchesteriani, dell'asseferisti. Di conseguenza questi autori pensano che il modo perché il mercato possa sviluppare il proprio potenziale positivo e dunque i fini sociali è necessario che si stabiliscono delle regole che abbiano rango, delle regole di rango costituzionale. A questo punto, indicato il campo di gioco, indicate le regole di gioco, del gioco, indicato l'arbitro, i giocatori sono liberi di operare all'interno del proprio rettangolo di gioco e attraverso regole condivise. Quindi non è una terza via, vi è la consapevolezza che il mercato produce gli effetti socialmente migliori a condizione che però il mercato sia tutelato. Ecco, già allora c'era una critica come il mercato era garantito, tutelato, protetto in un certo senso. È significativo che in questa collana, in questi saggi raccolti in questo libro, ci sia anche un saggio di Luigi Einaudi che non è riconducibile direttamente alla dottrina appunto dell'economia sociale di mercato, era essenzialmente un liberista ma con forti toni anche di dimensione sociale, di tensione sociale, ed Einaudi mette appunto in rilievo il fatto che ci sia stato quasi uno scontro tra il capitalismo e la concorrenza, che la società capitalistica non era una società in cui si esprimeva la libera concorrenza. Sì, Einaudi incontra il pensiero dell'economia sociale di mercato sin dagli inizi. Dopo però inizia un sodalizio molto stretto con Röpke, quando durante gli anni di Ginevra, gli anni in cui insegnerà a Ginevra, sono gli stessi anni in cui anche Röpke sarà a Ginevra, si incontrano e inizia appunto questo sodalizio. Nel saggio che noi riportiamo, Einaudi condivide la critica di Wilhelm Röpke al capitalismo storico. Röpke distingue tra principio di concorrenza, ovvero l'economia di mercato, e capitalismo storico, potremmo dire il modo in cui poi il capitalismo si sia realizzato nell'ultimo secolo. E in questa recensione saggio di Luigi Einaudi appunto troviamo una piena condivisione di questa distinzione tra il modo in cui si è poi storicamente realizzato il capitalismo e i principi della libera concorrenza, i principi del libero mercato. Accanto a questo Einaudi condivide la posizione di Röpke in ordine agli interventi conformi, cioè al modo, alla cifra dell'intervento dello Stato di tipo regolamentare, in modo da consentire al mercato di essere pienamente libero. Ecco, è interessante leggere un piccolo brano di quello che scrive Einaudi, in cui dice: il capitalismo storico nacque così guasto, l'elefantiasi delle grandi città, delle grosse imprese, dei cartelli industriali monopolistici, non è la creatura del caso o della tecnica, ma della storia della struttura sociale feudale preesistente, perpetuata da legislatori e giuristi male consigliati. E continua Einaudi: il capitalismo storico non è fondato nell'ordine naturale delle cose, bensì in istituzioni volute dagli uomini, come le società per azioni, le società fiduciarie, le società a responsabilità limitate, i consorzi liberi o d'obbligazione tra industriali, il diritto illimitato ereditario. Ma le istituzioni giuridiche sorte e perfezionate nel tempo del liberalismo o capitalismo storico non sono proprie del sistema economico fondato sulla concorrenza. Ecco, sembra quasi di leggere una critica, anche riportandola un po' all'attualità di questi anni, a come poi lo sviluppo di questo capitalismo ha portato anche alle crisi come quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo purtroppo in questi mesi. Ma non c'è dubbio, Einaudi, questa è la grandezza degli autori come Einaudi e anche come Röpke appunto, che intercettano una realtà, e da questa realtà riescono poi a distillare alcuni elementi che sono perpetui. È incredibile vedere come avessero intuito che il mercato non è un insieme di istituzioni che galleggiano nel vuoto, come appunto si potrebbe immaginare attraverso un processo di pura astrazione, bensì le istituzioni sono fatte da uomini, per uomini, che tentano di risolvere problemi totalmente umani. Quindi le istituzioni hanno sempre questo carattere contingente che deve essere sempre criticato, devono essere sempre criticate, ripensate, rivalutate. Quindi diciamo che Einaudi in questo senso interpreta un pensiero che era presente all'epoca, ma che è presente anche oggi con tutti i suoi elementi di attualità. Ecco, che non è un liberalismo ideologico assoluto, perché per esempio scrive ancora: se si lascia libero gioco al laissez-faire, laissez-passer, passano soprattutto gli accordi e le sopraffazioni dei pochi contro i molti, dei ricchi contro i poveri, dei forti contro i deboli, degli astuti contro gli ingenui. Ma questa, che è critica distruttiva del liberalismo storico, impone soltanto un ritorno alle origini pure del sistema di concorrenza. Cioè, non siamo di fronte, quando si parla di monopoli, di sopraffazione di pochi sui molti o dei ricchi sui poveri, non siamo di fronte a un fallimento del mercato, ma al fatto che il mercato sia mal regolato. Sì, e soprattutto vi è la consapevolezza che i mercati non sono perfetti perché sono popolati da uomini, e gli uomini non sono perfetti. Alla base c'è una prospettiva antropologica, questo bisogna, ed era presente, molto presente in Röpke, ma era presente anche in Einaudi. Ecco che parlare del mercato come un sistema perfetto è un non senso per Einaudi, e per questo motivo pone tutte queste condizioni. E proprio questi temi sono quelli che si ritrovano in questi anni e recentemente nelle encicliche del Papa, l'ultima, la Caritas Veritate, con il richiamo anche all'esigenza di un'etica dell'economia. È proprio questa esigenza di far sì che gli uomini che sono all'interno del sistema economico si muovano secondo dei principi etici e sappiano ordinare, rispettando la libertà delle persone, per ordinare il sistema verso una maggiore giustizia, una maggiore equità. Sì, io ho messo in evidenza nella mia prefazione un passaggio di Röpke, tratto dal saggio Limiti e presupposti del mercato, tratto dall'opera Al di là dell'offerta e della domanda, che è un po' considerato il testamento spirituale di Repke, ho messo in evidenza un passo di questo saggio che sembrerebbe ricalcare quasi perfettamente un passaggio della Caritas in Veritate, lì dove Benedetto XVI afferma che i mercati operano all'interno di un contesto culturale e questo contesto culturale innerva poi le istituzioni del mercato. Ebbene, questa è esattamente la posizione di Repke e della posizione di Repke di altri autori, i quali mettono proprio in evidenza il dato culturale del mercato. Non esiste il mercato, esistono tanti mercati quante sono le matrici culturali che innervano le istituzioni che poi danno vita al sistema mercato. Ecco, quindi in questa prospettiva certamente Röpke non ha copiato da Benedetto XVI, ma Benedetto XVI anche con la sua cultura un po' tedesca, ovviamente essendo un papa che viene da quella terra, ha nel suo interno, ma anche in fondo come sviluppo, lei cita non solo Benedetto XVI ma anche le altre encicliche della Chiesa, questo concetto di sussidiarietà per esempio è proprio di un'economia sociale di mercato in cui ognuno nel proprio ambito deve svolgere il proprio dovere all'interno appunto di regole condivise. Certo, bisogna considerare che sia Walter Eucken, che è un po' il padre dell'ordoliberalismo da quale poi discende l'economia sociale del mercato, almeno alcuni aspetti dell'economia sociale del mercato, ma sia Walter Eucken sia Wilhelm Röpke faranno riferimento al principio di sussidiarietà e con particolare riferimento a Wilhelm Röpke sarà Röpke a scrivere un saggio sulla Mater et Magistra, mentre in riferimento al principio di sussidiarietà, mentre Walter Eucken cita l'enciclica Quadragesimo Anno nel passaggio, in paragrafo 80, nel quale Pio XI definisce il principio di sussidiarietà, ma questo è un sapere che poi nel pensiero sociale della Chiesa si è andato sviluppando e maturando, perché se pensiamo al contributo che di Luigi Sturzo e di altri autori, no, non possiamo non trovare strette connessioni tra l'economia sociale di mercato e il pensiero sociale della Chiesa. Röpke scriverà che di Luigi Sturzo come un suo mentore, Luigi Sturzo scriverà di Röpke d'altra parte come un punto di riferimento nella sua riflessione. Ecco, questo era il clima di quegli anni. Insomma. Quindi Il liberalismo delle regole, primo volume di questa antologia, il secondo quando uscirà? Spero primi del 2011, adesso siamo nel 2010, vorremmo veramente che il libro fosse conosciuto perché presentiamo documenti inediti del 36, del 44, del 47, insomma sono documenti che anche mostrano la sofferenza, perché non dimenticare che questi testi sono stati scritti nel bel mezzo di una Germania nazistizzata, nel caso di uno in particolare di questi testi, Ordine Sociale ed Economico, gli autori, due dei tre autori, Adolf Lamp e Konstantin von Weiz, furono arrestati per questo documento che è rimasto inedito fino al 78 e in Germania è ancora inedito in Italia fino ad oggi che l'abbiamo pubblicato. Ecco, grazie mille, pubblicato a voi in questo libro, grazie al professor Flavio Felice, Il liberalismo delle regole, genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato, edito da Rubettino, è un volume di 240 pagine per 19 euro. Grazie al professor Flavio Felice che è stato con noi, grazie a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.